been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations barely end, so leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shuffle away. Puntualmente alle 21:30 inizia Disorder anche per oggi, 22 novembre del 2021. Questa è naturalmente Radio Onda Rossa, che modula sugli 87.9 e che ha il sito internet che è www.ondarossa.info. Spazio che andrà avanti fino alle ore 23, per cui si va a salutare Maya e Nicola Locci in Sardegna, Alessandra qui a Roma, Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo, Marco Milanesio di Disordine, Cornelio Basilisco di Umanima e poi Laura Spirit Crusher, Ant Christ di Omicidio, un abbraccio a lui. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. E poi Cecilia Miradoli di Pindar, Enrico Ponzoni di Succubus Project, progetto interessantissimo insieme a Massimo Mascheroni di Others. Mariano che ci sta ascoltando a Berlino, Alberto Clipper, MDMA, Moschita da Miramare che ci sta ascoltando invece da Harlem in Olanda, Giulia qui a Roma, il medico della peste. I'm watching you, I watch it all, I take no pity from your friends. Who is right, who can tell, and who gives a damn right now? Until the spirit new sensation takes hold, then you know. Poi ancora Marco qui a Roma e Francesco Cornello a Bergamo. E allora andiamo ad iniziare con andando a riprendere e tornando quindi indietro nel tempo anche di molto il primo lavoro di Eight e Merda, progetto fiorentino, dove si va ad unire drone, metal e noise anche in questo l'anno dell'odio del 2014, dal quale estraiamo Pietà. sera lo voglio riporire. Quindi avete sentito quante influenze e quante atmosfere, diciamo, erano presenti in questa Pietà. Questa traccia di Hate & Merda, dall'anno dell'odio, esordio del 2014, per questo progetto fiorentino. Risaluto Giulia qui a Roma, Jess Gallagher in Sicilia. Jean-Claude Bertot, Nicola Locci di Stigmate, che ci sta ascoltando in Sardegna. Un finale dilatato, ma come avete sentito anche il metal che si sposa con l'industrial e con il noise, componenti che vengono riprese anche se in maniera diversa La prossima cosa che ci andremo ad ascoltare, direi molto nota a chi sta ascoltando questi spazi, sto parlando dei Ministri naturalmente. Moral Hygiene, ultimo interessantissimo album uscito proprio nel 2021. Era come un circuito senza fine. La polemica antisistema perennemente presente nelle tematiche di Ministri, insieme alla fisicità del proprio suono. E questa sera c'è Sabotage Sex con la partecipazione di Jello Biafran dei The Kennedys. E poi ci ascolteremo Disinformation. Su e giù per Diamante Street. E nell'enfasi del momento, intanto scorreva ancora Anno Pleasure dei Joy Division, rimasta del CD, e quindi adesso abbiamo operato il cambiamento preannunciato. Eccoli qua i Ministri di Moral Hygiene. A volte uscivo per una parte. As misinformation and so-called fake news continues to be rapidly distributed on the internet, our reality has become increasingly shaped by false information. Direi un ritorno più che riuscito, questo Moral Hygiene per Al Jorgensen e i suoi ministri. Ministri che anch'io personalmente ho visto un paio di volte, una volta nel 2006 in Germania, dove però, forse perché era una fase diversa rispetto ad ora, privilegiarono l'aspetto, diciamo, anche più metal, un concerto indubbiamente interessante, ma forse un po' troppo ridondante quelle sonorità per quanto riguarda i miei gusti, ovviamente. Invece, 3 anni fa, qui a Roma fu un ottimo live, molto più serrato, dove tornarono fuori le iniziali influenze industrial presenti anche in questo Moral Hygiene, fuse perfettamente appunto con il metal. Ringrazio Antonio per la chicca che ci dona questo film che io non conoscevo, ammetto, Fix Ministry the Movie, interessante. Intanto saluto Lucia Cagliazza di Lupsi, Arianna Digni Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster. Pindar, Cecilia Miradoli. E stasera ci siamo anche goduti questa traccia, anzi quella precedente, Sabotage is Sex, dove c'era la presenza di Jello Biafra come ai tempi dei Lard. Allora, 21:53, si cambia radicalmente storia e andiamo proprio in Olanda, dalla nostra Simona della Morte, Moschita da Miramar, in alta e in arte Feralia Planizia, per andarci a gustare questo progetto di estrazione prettamente elettro che soddisferà soprattutto i palati di chi ama Anthony Rother e dintorni. Un 5 tracce che porta lo stesso titolo, Feralia Planizia, e dal quale estraiamo Air Type Hero e Remote Activation. Mm-hmm.